angeli, ladri di Dio, San Giuseppe. Giuseppe Zanatti, alti sono appariscenti. Principe Perez nel cat, posso uccidere i trasportatori di tutto. Sopra Mercedes non ho tempo, ora sto pensando solo ad eccellere. Troppo alto, troppo veloce, no, non voglio scendere. Flow King Kong uccide la tua merda semplice. Finisce sulla schiena, brucia la coscienza in cenere. Becchi il Dio per le strade, dici no, non posso crederci. Sparisce mezzo chilo la mia click, fa incantesimi. Mio fratello che si apre, ci esagera con il peso sfacciati. Pensano sia borghese, ma sono nobile. Colcetti nero pago, sembro una Batmobile. Draghi, state giochi, benvenuto nel club. Ho sta maglietta da NPRL, giuro è così soffice. 30 gradi in gola, 30 gradi dicembre. Piangi sul sangue versato, non serve a niente. Ho consapevolezza, cervello incandescente. Nato senza sentimenti, ho il cuore semifreddo. Vuoi avere quella beef? No, non la vuoi davvero. Mani nere, Glock nera, Glock vera. Ti mando all'inferno vestito rosso del devil. Mi serve un'Electra. Tocchi la Dark, becchi la scossa elettrica. La testa mi gira a 360 come un'elica. Firestar, finisher, body slam, beccala. Troia, parli troppo, basta, ti prego smettila. Al mondo tra le mani, guarda come lo sgretolo. Il mio unico nemico la mattina nello spacchio. Vedo lo stesso Rolex, ma c'è il diavolo riflesso. Pensi di essere Cristo, beh, Cristo era un bugiardo. Pare, stai fuori per quanto stai continuando. Non voglio più aspettare, sono pronto per saltare. Entri nella mia zona e pezzi cotti di Armando. Vestiti eleganti, gatto pardo, grandi collane. Giochi con le armi, scoppi in aria come un petardo. Scarpe da 700 sopra i pavimenti in marmo. Borchi ed acciaio sulle tasche dei miei cargo. Non metta snapback, c'ho solo capi fermati. Grazie a Dio per queste tavole che c'è nel bagagliaio. Nel doppio fondo di un bagagliaio servono a ingrassare il nostro conto in banca. Vedo luci blu, ho voglia di sparare. DPG la gang, si siamo agli outsider. Queste spie non fanno altro che parlare. Ma pochi fatti, sto contando soldi, fra sto buttando soldi. Come switch flow sopra il beat ti fa impazzire d'odio. Nato al Colosseo, cresciuto coi colossi. Giovane G nel posto, sto qui per toglierti il posto. Parli di cazzate su di me, non vuoi vedere i mostri. Questi rapper sono burattini, fra io mangio fuoco. Poeta, maledetto Parex, dice quella merda che non vuoi accettare. Sto mangiando crack e cereali, mezza famiglia presso la coca. Cazzo ne sai, Dark Palo Bau Bablato, clicca un bonsai. Vergine ed omicidio, ma nella vita non si sa mai. A scuola fatto, ero sempre in ritardo, andare via con stile. Calcio in culo più tanto. La mia prof diceva che non sarei stato un cazzo. Ancora non sono un cazzo, ma esalzio. Per me solitario, parlo poco e penso tanto. Tu parli troppo e non pensi a un cazzo. Sei solo una spina nel fianco. Fotti con la Dark, ti fa cadere in basso. Io penso a me, Dark Dark. Se la gang passare da principe a re, solo un fottuto attimo.